America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, la saga di questo decreto anti-immigrazione voluto da Trump continua, perché ieri notte c'è stata l'audizione della Corte d'Appello del nono distretto di San Francisco del Dipartimento della Giustizia. I giudici hanno ascoltato per un'ora la requisitoria degli uomini di Donald Trump e dopodiché si sono ritirati per riflettere. E il primo messaggio che abbiamo avuto è stato un messaggio, come dire, di perplessità, però non ci sarà un nulla di fatto, dovremo aspettare i prossimi giorni per capire se la Corte sospenderà l'ordine che era stato dato dal giudice federale di Seattle, James Robert, di sospendere a sua volta l'ordine esecutivo di Donald Trump. Dunque, lasciamo perdere questo tema perché ne abbiamo parlato fin troppo, aspettiamo a vedere che ci sia un altro verdetto, se arriverà davvero alla Corte Suprema o meno. Oggi invece parliamo d'altro. Today with some major advances in cancer research this month. Hear about this, that Utah researchers announced a new treatment for melanoma. Beh, avete sentito, è una delle tante notizie che riguardano le cure sul cancro. Vi avevo detto tempo fa, quando io stesso mi ero trovato in mezzo a un'esperienza, come dire, non proprio rassicurante, che avrei di tanto in tanto affrontato questioni legate al cancro, alle possibili cure. Ebbene, oggi vorrei dedicare la puntata proprio a questo, alla ricerca del cancro, però vorrei vederla attraverso il prisma del nostro solo andata. Solo andata, chi si compra un biglietto di solo andata per venire in America, negli Stati Uniti. E c'è la storia che è stata su molti giornali americani, sul Wall Street Journal, è stata anche sull'Economist, sulle televisioni, di uno scienziato italiano che lavora alla Columbia University, che si chiama Andrea Califano, il quale è arrivato molti anni fa qui negli Stati Uniti, ha fatto un PhD all'MIT, poi ha lavorato con l'IBM, è laureato in fisica e combinazione, pur non essendo un medico e pur non essendo laureato in biologia, è finita che si sta occupando di ricerca sul cancro, anzi è il chairman del Dipartimento di Biologia dei Sistemi di Columbia University, direttore del Genoma Center della Columbia University e direttore associato del Centro sul Cancro della Columbia. Dunque è molto interessante vedere come l'America è molto flessibile, non è che ci vogliono gli stampini, cioè che si può fare solo una cosa se si viene da un certo background. Bene, Andrea Califano è qui con me ai microfoni di America 24. Buongiorno Andrea. Buongiorno Mario. Dunque Andrea, io ci conosciamo da molti anni, quindi ho visto queste sue mutazioni, tanto per restare in tema, da scienziato che cercava di ricostruire la mappa genetica all'IBM, adesso a ricercatore scientifico contro il cancro. Allora Andrea, tu stai seguendo un filone molto particolare, molto nuovo e molto innovativo, che viene definito da alcuni come l'attacco contro il master regulator nella proteina che alimenta il cancro. Ecco, raccontacelo nelle tue parole, qual è la novità in questo approccio? La novità del nostro approccio è che fino ad ora abbiamo cercato di capire il cancro nello stesso modo in cui avremmo potuto affrontare il problema di come buttare giù un palazzo che non ci piace. Invece di guardare ai pilastri che tengono sul palazzo, guardiamo all'architetto che ha progettato il palazzo. L'architetto del cancro sono le mutazioni, e le mutazioni in certi casi possono servire a bloccare il cancro quando non hanno ancora creato uno stato della cellula che è irreversibile. Ma in molti casi purtroppo queste non funzionano, e tra l'altro soltanto il 25% dei malati di cancro in questo momento ha delle mutazioni che sono possibilmente, come si dice, targetabili con dei farmaci. Quindi quello che noi studiamo è se invece ci sono dei meccanismi più universali che si possono attaccare in maniera indipendente dalle mutazioni. E ci sono queste cellule centrali? Sì, abbiamo dimostrato l'esistenza di queste proteine, è un numero molto limitato tra l'altro, tipicamente per ogni tipo di cancro ne troviamo due o tre che sono fondamentali per mantenere lo stato della cellula tumorale, le quali sono veramente come una centrale di controllo, nel senso che sotto di loro, pensate ad avere dei generali che controllano delle armate, sotto di loro ci sono le armate che seguono a fare tutte le cose che servono al cancro. Per esempio, il cancro deve evadere il sistema immunitario, e quindi al di sotto di questi generali ci sono i geni che permettono di farlo. Il cancro deve replicarsi in maniera molto più veloce delle cellule normali, e di questi si chiamano gli hallmarks del cancro, ce ne sono circa una dozzina, e toccando questi master regulators con farmaci che noi abbiamo già in esistenza è possibile bloccare tutti questi meccanismi allo stesso tempo. Quindi i farmaci oggi in esistenza andavano a colpire certi aspetti multipli di proteine senza però necessariamente targettare il master regulator, diciamo, la proteina centrale. Esatto, i farmaci sviluppati ora per quella che si chiama targeted therapy colpiscono proteine che sono a monte, se si vuole, dei master regulators e quindi hanno dei meccanismi che possono essere bypassati da altre mutazioni. Ci sono migliaia di altre strade alternative, infatti noi abbiamo stimato che il numero di possibili mutazioni che danno il cancro sono più numerose degli atomi nell'universo, quindi stiamo parlando di 10 alla potenza di 80 mutazioni. Ecco, in questo momento voi state già facendo delle prove cliniche. Sì, ci sono vari studi clinici che sono in questo momento in corso. Per esempio, ora uno studio molto interessante che è appena passato in fase 2 sui tumori al seno, che rispondono in genere inizialmente molto bene a un farmaco che si chiama trastuzumab, ma nel 70% dei casi alla fine ritornano in una forma che non risponde più al farmaco. E invece con una combinazione di due farmaci che sono apposta targeted per i master regulator siamo riusciti a sconfiggere i master regulator con dei risultati molto interessanti nei pazienti. Ecco, la cosa importantissima è non dare mai speranza a chi ascolta che ci siano delle cure immediate. Voi state sperimentando, ma a quanto siamo in termini di anni dalla possibilità che alcune di queste cure diventino di massa? Penso che nei prossimi 10 anni grande parte di quello che è ora in fase sperimentale venga in qualche modo o un altro portato al grande pubblico e probabilmente ce ne vorranno altri 10 prima che quelli che sono i nuovi farmaci sviluppati ora riescano ad arrivare ai pazienti. Andrea, tu sei laureato in fisica, ma come puoi fare la ricerca sul cancro? Avresti potuto farlo anche in Italia? Beh sì, lo potevi fare in Italia, il problema è che l'Italia ti dà il permesso di fare la ricerca, ma non ti dà i meccanismi per poterla fare. Ecco, tu a un certo punto dall'Italia hai preso un biglietto di sola andata per venire qui in America. Sì. Non credo che lo rimpiangi, hai una bellissima famiglia. Ecco, quando sei partito, immaginavi che avresti potuto fare quello che hai fatto? Ma io sono un ottimista fondamentalmente di partenza, quindi non mi sono mai creato il problema di cosa sarebbe successo nel futuro. Mi piace vivere proprio nel momento e riuscire sempre a scoprire qualche cosa di nuovo. Nel momento in cui smetto di imparare, probabilmente ho finito il tempo utile della mia vita. Quindi, diciamo, la cosa che è stata molto bella per me negli ultimi 30 anni qui in America è che sono riuscito a passare dalla fisica all'intelligenza artificiale, alla biologia, alla farmacologia, che stiamo facendo più recentemente, alla clinica. E questo è un iter che è abbastanza complesso, è pieno di possibili mine e, diciamo, fili spinati, però se uno riesce a farlo dà veramente grandi soddisfazioni. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ho sempre qui con me Andrea Califano. Devo dire, è bravissimo, geniale, però io lo conosco da qualche anno. Ecco, sulla musica lascia un po' a desiderare. Però, nonostante tutto, visto che consentiamo a chiunque di scegliere la canzone del giorno, lo faremo fare anche ad Andrea. Andrea, è il tuo momento. Direi che scegliere Radioactive di Imagine Dragons, perché la radioattività è una delle cause fondamentali dei tumori e anche una delle possibili cure, quindi rimaniamo in tema di prevenzione. Ottimo! Radioactive di Imagine Dragons. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!